Bene, allora iniziamo questa serata in un contesto nuovo. Abbiamo una sala a disposizione che è questa, la Zero, fino a quasi a Natale per quasi tutte le iniziative. Abbiamo un autunno molto intenso come biblioteca, ma non solo, come tutto Centro Trevi, quindi vi invito poi anche a seguire un po' le nostre proposte perché ci sarà da fare, insomma, fino a Natale abbiamo tante iniziative, tante presentazioni di libri, in particolare c'è anche la mostra del CAI che è nel piano sotterraneo e ci saranno delle iniziative collaterali che l'accompagneranno. Infine chiuderemo l'anno dedicato a Leonardo con alcune appunto attività e una mostra sempre dedicata ai 500 anni di vita di Leonardo, che è stato un grande genio, matematico, anzi è inclassificabile direi, e però qui questa sera insieme a noi abbiamo anche una studentessa di matematica che quando mi ha telefonato alcuni mesi fa per dirmi che aveva scritto un romanzo, così mi chiedeva di poterlo presentare in biblioteca, ci siamo trovate e allora lì mi è venuto in mente che la conoscevo di vista già da bambina perché abitavamo probabilmente nella stessa zona e quindi mi ha raccontato Cristina Chinaglia, la nostra autrice, che saluto questa sera, che al momento sta studiando matematica a Trento, è impegnatissima anche con uno strumento al conservatorio, cioè violino. E quindi cosa può scrivere una studentessa di matematica? Che genere di romanzo può scrivere se non un giallo intricato, una spy story dove tutto è concatenato e nulla è lasciato al caso? Per cui, insomma, questa sera il romanzo Il risveglio è appunto un romanzo che può essere classificato in questa categoria. L'abbiamo letto così Maria Pia ed io in questo ultimo mese, devo dire che ci è piaciuto, almeno io penso che ci Divorato. siamo confrontate, ecco, ci è L'ho divorato in poche piaciuto. ore. E stasera vi sveleremo alcune cose del romanzo, ma anche e soprattutto anche di Cristina, che devo dire è una ragazza molto impegnata e ha un suo talento, anzi più talenti direi, non solo nella matematica e nella musica, ma anche nel racconto e nella narrativa. E infatti ti chiedo la prima domanda che ti farò è appunto come mai hai scelto e qual è stata la tua fonte ispiratrice per una storia così intricata e complessa come può essere il genere di una spy story. Allora, beh, se devo proprio essere sincera, una cosa in questo romanzo è stata lasciata al caso, e cioè l'idea di scriverlo. Diciamo che ho cominciato a lavorare a questa storia quando ero alle superiori, poco prima della maturità. Un mio compagno di classe gentilmente mi ha offerto una cioccolata e io così, diciamo, per ricompensarlo, ripagarlo della sua gentilezza, ho deciso di metterlo come protagonista di una storia. Ora, questo gentile signore adorava lo spionaggio in una maniera proprio, cioè, ogni momento per lui era buono per fingersi James Bond in missione super segretissima. Così ho detto, mentendo spudoratamente, oh guarda, sto proprio pensando a una storia di spionaggio, se vuoi ti metto come uno dei miei personaggi. Solo che poi la storia io in realtà non ce l'avevo in mente e quindi un po' tiramolla sui suggerimenti perché avevo dei compagni di classe un po' esuberanti che amavano dare suggerimenti in materia. E quindi alla fine è saltata fuori la storia, però appunto è stato un po' un caso. Appunto ci raccontavi che i tuoi compagni di classe, il tuo ambiente, insomma quello dove tu eri immersa durante la frequentazione del liceo scientifico, è stata la tua fonte ispiratrice primaria. In questo romanzo ci sono tante persone, tanti personaggi che curiosamente, o forse in omaggio anche a quello che è il linguaggio dello spionaggio, vengono soprannominati semplicemente con una lettera dell'alfabeto. E pur essendo sotto mentite spoglie, diciamo che hanno una connotazione molto particolare. Noi sono realistici questi personaggi, li hai descritti bene. E quindi ti chiedo se la tua classe o quale ambiente possa aver così fornito tanta ispirazione per queste persone. Allora, normalmente si dice che la realtà supera ogni fantasia e sì, in questo caso è stato proprio così, perché i miei personaggi di fantasia sono molto molto ispirati a dei miei compagni di classe, infatti soprattutto i personaggi principali, perché poi altri personaggi secondari magari ho lavorato tanto di fantasia, però ecco, almeno i protagonisti sono effettivamente persone abbastanza reali, cioè ho cambiato qualche tratto, qualche dettaglio della loro personalità, del loro aspetto fisico, per carità non sono assolutamente identici, però i caratteri sono risultati abbastanza realistici proprio perché effettivamente persone con quei caratteri esistono. Questa è una storia che si sviluppa, si snoda tra, insomma, in tutta Europa, no? Diciamo, tra l'Olanda, correggimi se sbaglio, dalla Danimarca e poi fino ad arrivare anche non solo in Italia ma anche in Trentino Alto Adige, no? C'è l'inchino, abbiamo detto, al Trentino Alto Adige, al locale. Che ne dici? Facciamo sentire un attimo com'era Enne, per esempio, il protagonista. Vediamo come inizia questa storia. Era una fresca domenica pomeriggio, illuminata dal primo pallido sole della primavera. I viali del Parco Fellede di Copenaghen erano gremiti di persone di tutte le età, che stavano approfittando del bel tempo e della temperatura non più così rigida per fare una bella passeggiata. E a passeggiare in mezzo a tante persone qualsiasi quel giorno c'era una persona più qualsiasi delle altre, Noah Hedegaard, un qualsiasi architetto semisconosciuto. Era un uomo alto sulla trentina, con dei capelli scuri che teneva sempre ben pettinati indietro e degli occhi di un verde vagamente spento, che però avevano una loro originalità e un loro carattere. Certo, si poteva definire di bell'aspetto, ma tendeva ad apparire sempre troppo serio, il che non faceva che indurire i suoi lineamenti. Ad un occhio poco attento poteva sembrare che qualcosa lo preoccupasse, ma chi lo conosceva bene avrebbe subito capito che era solo pensieroso. Era da un paio di settimane ormai che fiutava qualcosa nell'aria. Una specie di sesto senso gli suggeriva che qualcosa stava per succedere. Non avrebbe saputo dire cosa, ma sapeva che qualcosa sarebbe accaduto. Si strinse nelle spalle quando una folata di vento si alzò, investendolo in pieno. Lui si fermò un istante, rabbrividì. Poi riprese a camminare. Allora, questo è Enne, no? Il protagonista, diciamo, di questo racconto. Ti sei ispirata a un tuo compagno che ti ha offerto una cioccolata, ma tu non sapevi che avresti scritto un libro, no? Ancora. Quando è che è successo e come è successo che ti è scattata questa voglia di scrivere? Ma di scrivere in generale? No, anche sì. Questo racconto. Ah, ok. Allora, beh, premetto sullo scrivere in generale, a me scrivere è sempre piaciuto, ho sempre avuto un sacco di idee, di storie nella testa, a un certo punto ho fortunatamente imparato a scrivere e ho deciso bene, metto giù queste idee che ho. Questa storia in particolare è il frutto del mio non studio per gli esami di maturità, perché giustamente sotto maturità, invece che studiare come tutti gli studenti normali, io scrivevo romanzi. E alcune idee che avevo all'inizio sono state, mi sembravano un po' forzate. Poi, appunto, i miei compagni amavano impicciarsi degli affari miei e hanno così avuto la brillante idea di suggerirmi. Alla fine mi hanno suggerito talmente tante cose che metà le ho dovute scartare. Quindi, però insomma qualcosa hai tenuto. Sì, qualcosa ho tenuto. Tu dici mi piace molto, molto scrivere, ho scritto sempre molto. E come lettura, che cos'è che leggi di solito? Allora, ammetto di essere una pigra. Allora, da piccola ero una lettrice, proprio divoravo qualunque libro mi capitasse tra le mani, anche se poi magari non mi piaceva. Poi sono diventata pigra ho scoperto che leggere in fondo era tanta fatica. Per carità, adesso ho ripreso e sono contenta di aver ripreso a leggere molto, ad amare la lettura, perché leggere è il miglior modo per imparare a scrivere. Non ci sono storie. Principalmente leggo libri per ragazzi e per bambini. Nonostante la mia, direi, veneranda età, però penso che le persone in questa sala abbiano un po' più anni di me, quindi forse non è il caso. Però no, leggo tanti libri per ragazzi e bambini perché vorrei diventare autrice e specializzarmi in libri per bambini. Adesso sto provando un po' di concorsi, vediamo. Insomma, non ti ferma nessuno, Cristina. Sei un vulcano di idee. Allora, abbiamo sentito Anne, un personaggio però maschile, e abbiamo un altro personaggio, un contraltare, che è V. Maria Pia, ci leggi un po' il profilo di V. E poi ci spieghi perché li chiami così. La donna di fronte a lui lo fissava dall'alto del suo tacco 12, con fare quasi inquisitorio, congelandolo con il suo sguardo glaciale. Anche senza quegli occhi freddi a puntarlo, tuttavia, il danese non avrebbe comunque avuto niente da dire. La vista di quella donna gli toglieva il fiato. Noah Hedegaard? Domandò lei con voce squillante e vagamente dura, e un leggero accento napoletano che accompagnava tutte le sue parole, rivelando inconfondibilmente la sua provenienza. Cioè, il fu Noah Hedegaard. Già, rispose l'altro, risvegliandosi dal suo stato di incanto ed allungando la mano per stringere quella che la sua interlocutrice gli stava porgendo. Io sono Bu, si presentò lei, la tua guida finché resterai in Italia. Ma allora, doveva essere una consuetudine dei servizi italiani usare le lettere come nomi in codice. N decise di presentarsi nuova a sua volta, anche se usare quella lettera gli sembrava abbastanza ridicolo e innaturale. Eh sì, lo so già, lo bloccò lei prima che potesse aggiungere altro. So tutto di te, e anzi ti dico una cosa: qui io do gli ordini e tu li esegui, chiaro? Niente discussioni, niente contrattazioni, ma soprattutto, e sottolineo soprattutto, niente iniziative personali senza prima consultarmi, sono stata esauriente. E marcò un sopracciglio fissando Noah dall'alto in basso e incrociando le braccia sul petto, assumendo un'espressione dubbiosa, come se già sapesse che quell'ammonimento non sarebbe servito. Assolutamente, rispose lapidario lui, sentendosi fulminato da quegli occhi scuri che lo fissavano ininterrottamente. Bene, concluse lei, allora non avremo problemi. Annuì a un suo pensiero, mentre l'altro restava di nuovo imbambolato sotto il suo sguardo inquisitorio. E vieni, riprese poi lei voltandosi e facendogli con la mano cenno di seguirlo. Ti mostro il tuo alloggio. Raccontaci un po' di questa donna, dai. Allora, Vi è ispirata a una mia compagna di classe che effettivamente aveva una tendenza ad essere un po' dittatrice. Lei aveva delle idee in testa e quelle proponeva e quelle bisognava fare, altrimenti erano rogne. E tra parentesi, aveva anche un bel modo di strillare in napoletano. Ah. Quindi effettivamente. Per cui, voi obbedivate o? No. Ah. Almeno io no. Anche perché anch'io so strillare, ho un po' di voce ce l'ho e un po' di napoletano me lo mastico, quindi sapevo rispondere a tono. Poi, per carità, insomma. Deve essere stata una bella classe, questa da gestire. Ah, raccomando. Bene, allora abbiamo parlato di questi due protagonisti, e ci dovresti raccontare perché, anche se Maria Pia ormai l'ha già accennato, Tu dici che questo è un sistema che viene usato dal sistema spionistico oppure te lo sei inventata tu quello di nominare i protagonisti e i personaggi con una lettera dell'alfabeto? Allora, probabilmente è una cosa che non esiste. Io l'ho inventata, sinceramente, non ho mai lavorato con i servizi segreti e anche se lo avessi fatto non lo potrei raccontare. Chissà. Però ho deciso di chiamarli con una lettera dell'alfabeto fondamentalmente per due motivi. Il primo è la pigrizia, cioè la pigrizia di dover inventare un nome per ogni personaggio. E la seconda cosa è volevo dare ai miei compagni che avessero per caso deciso di leggere questa storia un po' un indizio per riconoscersi all'interno della storia. Infatti le lettere che ci sono lettere prese dai loro nomi. Alcune sono le iniziali del nome, del cognome, alcune la seconda lettera, alcune l'ultima, insomma la seconda. Però era così per cercare di dargli un po' un indizio che potessero cogliere. Ma e com'è andata? Qualcuno si è riconosciuto? Hai avuto delle reazioni finora? Finora l'unico che si è riconosciuto è il protagonista, e solo perché gli avevo detto che era il protagonista. Insomma, sono pigri anche loro allora, non sei solo tu pigra. Vedo che il concetto di pigrizia torna continuamente, lo ribadisci, anche se facciamo fatica a crederlo, visto che sei così impegnata su tanti fronti. Un capitolo che mi ha colpito molto è quello dell'avvelenatrice. E so che Maria Pia deve avere anche segnato, vero, qualche lettura. E ci anticipi qualcosa dell'avvelenatrice? Allora, premetto che questo è il mio capitolo preferito, in assoluto. Non perché parla di avvelenatrici come qualcuno là in fondo potrebbe sostenere, pensare. Il fratello. Esatto. Ma è uno dei miei preferiti perché parla di cibo, è ambientato in mensa. Quindi, e l'avvelenatrice è il nomignolo che hanno dato alla cuoca. E premetto anche che certi fatti che sono raccontati in questo capitolo sono realmente accaduti. In classe? Sì. Ecco, vedi. Quindi, come la torta avvelenata. Quindi, sentiamo un po' allora dalla voce di Maria Pia. Da queste parti esistono i caffè? Si azzardò a domandare Enne con tutta l'intenzione di non rinunciare alla sua abituale bevanda mattutina. Da questa parte, disse Wu tra i denti, prima di muoversi verso l'ascensore, sempre ondeggiando sul suo tacco 12. Seguì Wu fino al bancone, dove stavano capovolte delle tazze da tè, che però erano perfettamente funzionali anche per il caffè, e sulla destra una brocca piena di caffè e una quasi vuota di un liquido chiaro, che poteva essere tè al limone. Accanto alle due brocche, un cesto zeppo di fette di pane tostate. «Abbuffati!» disse cinicamente Wu, fermandosi senza preavviso di fronte al bancone e incrociando le braccia sul petto, mentre Enne si impossessava di una tazza e di una fetta di pane. «Lei è T», si intromise Wu, facendo un paio di passi avanti per frapporsi tra Enne e la ragazza con il grembiule. «La nostra avvelenatrice!» Enne inalcò un sopracciglio facendosi comparire un'espressione poco convinta. «Mi prende in giro?» domandò poi, sul punto di trasformare il suo sorrisetto divertito in una risata a crepapelle, non potendo credere che nei servizi italiani esistesse un ruolo del genere. «Niente affatto!» replicò Wu seria, incrociando nuovamente le braccia sul petto. Prese una pausa, poi si spiegò. «E vedi, questa signorina ha cercato di avvelenare quasi mezza intelligence!» «Non è niente vero!» esclamò la ragazza alle sue spalle, richiamando la sua attenzione e facendola voltare, alzando leggermente il tono della voce. «Eh sì, invece!» Anche Wu aumentò il volume. Ti devo ricordare di quando nella pasta al pomodoro ho trovato il ketchup? O di quando per la scaloppina ai funghi hai usato tignose di primavera? O di quando... Oh, insomma! Sbottò l'altra rendendo più acuta la sua fastidiosa voce nasale. Si è trattato solo di stupidi incidenti che tra l'altro non hanno mai avuto conseguenze. Giusto, tranne qualche decina di agenti finiti all'ospedale. Tornò nuovamente alla carica Bu. Era rimasto impanato dove stava prima, a fissare incredulo la scena, anziché bere la sua tazza di caffè freddo. Non era più tanto sicuro di averne bisogno, sia perché quelle urla erano una sveglia molto più efficiente della caffeina, sia perché, a sentire da quanto Wu sosteneva sulla bocca, forse non era una grande idea assaggiare le sue preparazioni. Insomma, un lavoro molto rischioso quello dello spionaggio, vero? Dell'intelligence. Quello che volevo chiederti è se tu ti sei così rifatta o hai voluto restituire dei personaggi professionisti, oppure se invece c'è così una volontà di alleggerire un po' questo racconto senza scendere troppo nel dettaglio di alcune scene. Allora, spero sinceramente che nessuno di voi abbia pensato che questo potesse essere un romanzo serio. No, la mia intenzione era prendermi gioco di tutto e di tutti, cioè letteralmente ero sotto stress per la maturità, o ce l'ho sotto stress, non studiavo, quindi sotto stress non mica tanto, però insomma diciamo che è stato un po' un modo per far fronte alle antipatie riguardo nei confronti di certe persone. Infatti l'avvelenatrice, per esempio, è una persona che non mi stava poi così simpatica, per questo le ho dato questo ruolo un po' ambiguo e molto caricaturale. Quindi no, assolutamente, cioè i personaggi non intendono essere delle spie serie come potrebbero essere quelle magari, non so, le storie di Ian Fleming. In teoria James Bond è una spia seria, le mie no, non fanno altro che mangiare e litigare, litigare e mangiare e ogni tanto avvelenarsi. Sono anche gelosi però, no? Perché a un certo punto nel romanzo interviene anche un altro personaggio. Vogliamo svelare l'identità di questo o almeno dare un aggancio? Sì, c'è un certo L. Ecco, dai, partiamo con L, dai. Dopo T e dopo N arriva L. Poi vi interroghiamo. Alfabeto perfetto, come notate, solo alfabeto italiano. È difficilissimo, solo un matematico poteva mettersi. Sentiamo. N! Sgolaitò Wu non appena lo vide entrare nella saletta con il tavolo da biliardo. Sei fuori tempo massimo! Non ti scaldare, Wu, ribatté lui subito notando uno sconosciuto accanto alla sua collega. Il cervello ha bisogno di energia per funzionare. Prima bisogna avercelo un cervello, commentò Wu a petti stretti. Comunque, aggiunse subito dopo, facendosi comparire un vago sorrisetto maligno, non ci fai una gran bella figura con il nostro amico qua presente. N alzò le spalle con sincera indifferenza, chiedendosi chi fosse quello spaventapasseri, come lo aveva immediatamente soprannominato. Era un tipo dall'aspetto troppo distinto, con giacca e cravatta scure, ben pettinato, con uno sguardo serio e un fisico asciutto. N per un attimo fu invidioso di quella pettinatura e del colore scuro dei capelli del nuovo arrivato, ma i suoi occhi chiari sembravano decisamente stonare per qualche strano motivo che N avrebbe di nuovo definito invidia. Anche l'ombrello a cui si appoggiava aveva un che di strano. N non aveva ancora guardato fuori, ma era abbastanza convinto che fosse sereno e non piovesse. A che cosa serviva l'ombrello allora? Un ombrello viola, poi. Che pessimi gusti, si disse N. N, questo è L, lo presentò V. È un distaccato come te, gentile omaggio dell'MI6. N storse il naso. Gli inglesi non gli erano mai piaciuti, ma nonostante tutto gli strinse la mano sforzandosi di sembrare entusiasta. Piacere di conoscerti, disse, e io sono... Si morse la lingua per non dire il suo vero nome, come ormai si era abituato a fare dopo anni di lavoro normale. N, si precipitò a concludere, io sono N. Mi hanno detto che qui c'era un sacco di lavoro da fare e poco tempo, fece presente L con vaga aria di superiorità, tradendo solo un leggero accento anglosassone e tralasciando di presentarsi dal momento che ci aveva già pensato un po'. Non mi sembra il caso di perderci in presentazioni già fatte. L alzò gli occhi al cielo. Lo aveva appena conosciuto, eppure quel tipo gli dava già a lei. Poi insomma, diciamo che il rapporto con questi due sarà un po' difficile, no? Soffriranno, soprattutto questo protagonista soffrirà di gelosia, ma non vogliamo svelare troppo. Cioè, abbiamo accennato prima anche a un inchino al locale, no? Al nostro paesaggio, e come mai questa descrizione del Trentino che a un certo punto compare, questa scelta di spostare la storia in un'altra zona? Allora, potrei farmi la bocca larga e raccontarvi che è un omaggio alla nostra terra, al fatto che sarei a breve andata a studiare effettivamente a Trento, ma in realtà anche in questo caso si tratta di una presa in giro. Avevo una compagna di classe, Livignasca, che aveva un profondo e marcato accento lombardo, proprio sempre perché metto, perché cosa hai detto, e così. Quindi ho pensato di inserire anche qui un personaggio con un accento particolare, però non conosco un granché la zona della Lombardia. Sì, sono stata a Milano dintorni qualche volta, ho visto il lago di Como, ma non è che ci vado ogni momento e la conosco bene. Invece un bosco nel Trentino, io ho scelto Trentino, provincia di Trento, però in realtà se fosse stato in provincia di Bolzano non sarebbe cambiato nulla, in fondo sempre di un bosco si tratta, anche perché non sono stata lì a descrivere nel dettaglio. Ho scelto la provincia di Trento perché i trentini hanno un tremendo accento, che purtroppo adesso spero che non si noti, ma mediamente anch'io ho cominciato a parlare con l'accento trentino. Ecco, mi dicono di sì, quindi è una cosa un po'... Più che l'accento è una cantilena, no? C'è una modalità diversa. Sì, sì, è proprio un modo di finire le frasi che è un po' così. Poi ogni tanto, sì e no, adesso si sente, lo sento anch'io. Però sono appena tornata da Trento, sono stata giù tutto il giorno, quindi abbiate pazienza. È contaminata ormai. Succede, si prende subito l'accento, questo te lo garantisco, ovunque si vada. Bene, allora, abbiamo ancora qualche sorpresa, no? Vogliamo così leggere la parte dedicata al Trentino? Al Trentino, sì. Così vediamo come Cristina è riuscita a descrivere una parte del Trentino, che però doveva essere bergamasco, ma doveva essere, insomma, un po' complicata la faccenda. La mattina successiva, V, N e L erano partiti con il primo treno da Roma con destinazione Trento e a sera erano arrivati a una casa di due piani costruita con legno scuro in mezzo al bosco. La casa era su due piani con un grazioso tettuccio a punta che nascondeva una mansarda e una grande finestra circolare simile a un rosone, che la faceva sembrare la tipica casetta nel bosco delle fiabe. La porta aveva un'aria molto più solida del resto della costruzione, oltre che un design più moderno, che però stonava con con l'aria antica e fiabesca delle assi che componevano le pareti. Due finestre dalle dimensioni modeste, coperte da spessi vetri, permettevano di gettare uno sguardo nella stanza del pian terreno, anche se, con la luce che ormai scarseggiava, non era semplice distinguere gli oggetti, mentre due aperture identiche lasciavano intravedere il piano superiore. Allora, sei soddisfatta? Sei contenta? Sì. Benissimo. Adesso diciamo che possiamo anche svelare l'identità di altri due personaggi e poi così abbiamo un panorama completo del tuo racconto. Non abbiamo svelato la trama, ma almeno abbiamo dato un'idea di come si compone la tua, così, il tuo romanzo. Chi preferisci a questo punto? Poi un po' indifferente. Devi scegliere una carta, Cristina. Ah, ce l'ho. Cosa proponi? Io ho preparato A. Se vogliamo svelare chi ha, o altrimenti ci avviamo verso io il finale. Io terei sì. Il finale? Oh, decisamente sì. Però A non era male, eh? Ah, un po' soprammobile. Vabbè. Se c'è il tempo, io leggo tutte e due. Dai, sì. Allora, tratteggiamo A. Ma in che razza di posto era capitato? Si chiese Anne mentre camminava per tornare al tavolo da biliardo. Se quella era l'organizzazione italiana, non gli sembrava affatto inverosimile che il loro quartier generale fosse saltato in aria. Ma quello che gli pareva assurdo era che qualcuno potesse avercela con loro. Quegli italiani erano talmente disorganizzati e talmente confusi che il modo migliore per distruggerli sarebbe stato semplicemente lasciarli in balia di loro stessi. Come poteva qualcuno essere così cretino da sprecare un missile per fargli saltare una base? Si ripresentò nella saletta con il biliardo pensieroso e si appoggiò con i gomiti sul tavolo sbuffando. «Ciao!» lo salutò una voce sottile, riportandolo alla realtà del presente. Anne voltò lo sguardo verso la direzione da cui la voce era provenuta e riconobbe, dopo un brevissimo istante di smarrimento, la giovane che Woody aveva presentato prima di scendere in mensa. «Ah, tu sei A, giusto?» fece Anne. Lei annuì con un timido movimento del capo. «E da quanto lavori per l'intelligence?» domandò ancora lui. 6 mesi, rispose l'altra, accennando un sorriso all'espressione rassicuratrice del suo interlocutore. «Ma qui è tutto così strano. Prima facevo la segretaria, prima dell'incidente, intendo.» «Ah, tu eri lì?» Anne si sentì in dovere di mordersi la lingua. Quella ragazza sembrava così sensibile e timida. Forse una domanda così diretta non era il modo migliore per cavarle fuori qualche informazione. Sì, farfugliò lei dopo qualche istante per riprendersi dalla sorpresa di quella domanda che forse avrebbe anche potuto o dovuto aspettarsi. Sì, io lì ci lavoravo. Ora sono dovuta passare al servizio operativo per cause di forza maggiore. Non sono abituata ad essere chiamata A. Oh, anche per me è strano, ammise Anne. Da noi non si usano le lettere dell'alfabeto per identificare gli agenti. Ognuno ha il suo nome. Nome, codice, codo, ma pur sempre un nome. E il tuo qual è? Restò un istante sorpreso. Non solo la ragazza era stata in grado di rispondere senza alcun problema alla sua domanda, ma aveva anche reagito prontamente. Henrik, si decise poi a rispondere il danese, dopo aver riflettuto qualche istante se fosse saggio divulgare quell'informazione. Bando alle ciance, agente N. esclamò la voce squillante di Bu alle sue spalle, marcando volutamente quella N. Il danese si irrigidì all'improvviso. La pazza era tornata, si disse. Mi sembra che abbiamo del lavoro da fare. Ah, tu puoi andare. Stavamo solo facendo quattro chiacchiere, si giustificò N, intuendo che la sua nuova conoscenza potesse essere finita nei guai. Appunto, basta chiacchiere, ribadì la napoletana. Nazista, pensò Anne, mentre A si alzava dal suo posto e si allontanava. Insomma, abbiamo visto una bella compagnia, no? Prima di arrivare alla fine e leggere l'ultimo brano, volevo chiederti che cosa c'è di Cristina in questi personaggi e in questo racconto. Che di solito gli autori hanno una parte autobiografica che nascondono dentro nei romanzi. Beh, allora, la parte autobiografica mia in questa storia è l'esperienza che ho avuto alle superiori, in particolare l'ultimo anno, che era più fresco nella mia mente, però in pratica è quello. Poi sinceramente non lo so, io ogni tanto mi diverto a nascondere un personaggio che mi rassomiglia molto. In questo caso non l'ho fatto, però, cioè, quindi non l'ho fatto volutamente, sicuramente ci sarà qualcosa di me là dentro. La cosa che più potrebbe rassomigliarmi, direi che una parte dopo, che però noi non sveliamo, vi accenno solo, insomma c'è una festa a cui N, V e compagnia sono chiaramente invitati e dopo per riflettere si rifugiano in un pub irlandese. Ecco, questa è la cosa che mi caratterizza perché io studio al conservatorio e ora non voglio fare pubblicità a niente nessuno, ma sotto al conservatorio c'è un pub irlandese in bella vista e quindi dopo le lezioni... Un momento di sosta, di sappiamo dove trovare Cristina. Esatto, anche sì. Perché bisogna riprendersi psicologicamente, certe lezioni sono impegnative. Bisogna reidratarsi, si diceva una volta, bisogna reidratarsi. Comunque quello è l'unico pub che festeggia San Patrizio in marzo, a Bolzano. Ma credo ce ne sia un altro. Però lì, visto sì. Che... ma qua è sotto casa, quindi... Ecco. E adesso allora ci immergiamo nell'atmosfera thriller. Sì, facci rabbrividire. Quando Anne riaprì gli occhi lo fece lentamente, cercando di mettere bene a fuoco l'ambiente circostante e sfruttare la poca luce presente. Gli ci volle qualche istante per abituarsi alla semioscurità, anche se quello andava a vantaggio dei suoi occhi fotosensibili. Mentre il suo cervello comandava automaticamente ai polmoni di far entrare più aria e al cuore di accelerare i battiti, la parte cosciente, rimasta fino ad allora disoccupata, prese a bersagliare se stessa con mille domande, prima delle quali: dove era finito? Per un attimo ebbe quasi l'impressione di trovarsi nei sotterranei di un castello, o forse addirittura in una caverna scavata nella roccia, nella tana di un mostro guardiano. La sua mente delirante fu attirata da un improvviso cigolio. La porta blindata della stanza del mostro, pensò per un istante. Ma poi dei passi lenti e cadenzati in lontananza lo riportarono definitivamente alla realtà. Comprese di essere lì da un po' di tempo, quanto era impossibile dirlo con precisione. Accantonò il pensiero e tornò a concentrarsi sul presente. Era in una stanza, di questo era sicuro. Attualmente illuminata da un'unica fioca lampada alle sue spalle, probabilmente accanto alla porta che si era appena aperta e che in quel momento si richiuse con un tuffo. Già, la porta. Sicuramente di ferro, pesante e soprattutto resistente, in impossibile fuggire senza chiave. Provò a voltarsi per verificare la sua ipotesi e soprattutto per vedere il nuovo arrivato, dal momento che non poteva certo essere un mostro guardiano. Fu però trattenuto dalle corde che gli circondavano i polsi. Provò allora a fare un passo avanti, poiché aveva le gambe libere, nella speranza di rompere le corde, ma di nuovo queste lo trattennero e resistettero al suo tentativo. Il clic di un interruttore accese una luce che pendeva proprio in corrispondenza della sua faccia. D'istinto chiuse gli occhi, mentre i passi che prima aveva sentito riprendevano sempre più vicini. Riaprì gli occhi lentamente, combattendo contro la naturale voglia di richiuderli di fronte a quella luce abbacinante, e cercò di aguzzare la vista per vedere il nuovo arrivato. Si aspettava qualche brutto ceffo dallo sguardo truce. Invece, dopo ancora pochi passi, davanti a lui comparve una donna. Devo dire che Maria Pia riesce veramente a lasciarci sempre così in sospeso. La ringrazio tantissimo perché è veramente brava. Ha fatto sembrare davvero serio questo pezzo, che in effetti è l'unica cosa quasi seria. Ci terrei solo ad aggiungere una cosa su questo passo, che la gentile donzella che vede comparire N è ispirata a una persona reale che fa la Croce Rossina, quindi io mi preoccuperei. Ma è un mondo molto vario intorno a te, devo dire. Stiamo scoprendo delle cose di Cristina. Ecco, noi adesso ci avviamo alla conclusione. Ci tenevamo moltissimo a presentarvi appunto questa giovane autrice che si sta muovendo da poco appunto nell'ambito universitario, ma che ha trovato il tempo appunto sacrificando e trovando un'alternativa alla paura degli esami della maturità, scrivendo un racconto. Devo dire, ci è piaciuto, si intitola appunto Il risveglio, e al di là del titolo è invece un'intricata trama con tanti personaggi alimentati sicuramente dalla sua fantasia, ma anche su una base ben precisa dell'ambiente dove lei ha trascorso degli anni dell'adolescenza, che sono poi quelli che ci ricordiamo sempre con grande affetto e con grande anche, diciamo, ironia, vero? Ecco, è una parte, e soprattutto l'ironia è una cosa che abbiamo anche notato in Cristina, perché questo è un romanzo che comunque nasconde parecchie scene, direi quasi cabarettistiche in certi momenti. Quindi, se vuoi aggiungere ancora qualcosa, intanto ti faccio tanti auguri anche per i tuoi studi e per la tua così attività di scrittrice. Ma io non è che abbia un granché da aggiungere, in realtà, solo, non so, io mi sono divertita un mondo a scrivere questo libro. Mi divertirò ancora di più a vedere le facce dei protagonisti, che ho prontamente invitato ma che hanno prontamente evitato di venire. Sono no, timidi. Secondo me è una scusa. Avevano lezioni ma potevano saltarle. Però comunque, Cristina, questa registrazione verrà messa sul podcast, quindi ecco, Ascolteranno. Inoltre sappiate che questa è solo la prima puntata, perché Cristina ci ha già detto che c'è un sequel di questo romanzo, vero? Eh sì. Quindi ci troveremo il prossimo anno con la seconda puntata. Speriamo. Così vedremo NTAL e compagnia cosa hanno combinato nel frattempo. Cristina, tanti auguri e grazie a tutti voi di essere qui con noi questa sera ad accompagnare Cristina. Certo, certo. Piccoli. Due domande. Io sono qua, non scappo. Allora, prima di tutto non è neanche la domanda, ho capito che lei ha scritto sto libro mentre doveva prepararsi alla maturità. È andata bene lo stesso per la maturità? Sono all'università, quindi sì. Ma allora, l'ha scritto mentre... Sì, non studiavo proprio per la maturità perché avevo... nel frattempo ho finito di lavorare a un libro per bambini che è anche stato pubblicato, libro illustrato, quindi nulla di chissà cosa, è un racconto su un pasticcere avvelenatore. Ah, ma ce l'ha proprio, Esatto. Sarebbe da indagare, come mai. Sì. È recidiva. Però ammetto che il pasticcere avvelenatore mi ha salvato la vita alla maturità, perché uno dei veleni che gli ho fatto usare nella storia, sul quale mi sono informata per bene, mi è stato poi chiesto di parlarne nello scritto di scienze. Ah. Quindi... Non è un caso, vedi? No, tu dici che è un caso, infatti, invece non è. Non ho mai saputo niente di chimica, invece. Comunque hanno avuto un effetto positivo, il che ce lo dimostra. Seconda piccola cosa, piccola. Prego. Non è più una domanda. Volevo dire che se io per caso comprassi questo libro per portarmelo a casa per leggermelo, dovrei portarmi a casa anche la terapia. La terapia. Io le ho già proposto da un libro. Sì, sì, infatti ha ragione, davvero. Cioè, mi aspettavo che sarebbe stato letto bene, ma non pensavo così bene. Ha riso le compagne in maniera, vero? Decisamente. Ecco, ben immaginato. Io una cosa. Prego. Facendo tanti complimenti per il mio grazie. Buonissimo talento, una persona è proprio un talento evidentemente innato, che poi la scuola avrà aiutato a manifestarsi in forma, diciamo, più che buona. No, la scuola mi ha solo ostacolato su questo, purtroppo. È la prima volta che io vedo una persona così giovane, con una sicurezza narrativa, con una capacità di coinvolgere l'uditore, molto più di tanti adulti scrittori magari di professione pluriennale. Allora sento che scrive anche per bambini. Volevo sapere quali sono i soggetti che oggi i bambini gradiscono nella loro lettura, che saranno diversi da quelli delle epoche remote in cui erano bambini. Allora, sinceramente è una domanda difficile a cui rispondere. Io penso che gira che ti rigira, i temi ricorrenti siano sempre gli stessi. È il modo in cui vengono scritti che cambia. Ora, io mi sto impegnando per leggere più che posso libri per bambini e ragazzi, per prendere spunti, per capire cosa può interessare, ma sinceramente continuo a fare di testa mia. L'ultimo racconto, romanzo per bambini a cui ho lavorato, che sto aspettando i risultati di un concorso proprio, parlava di matematica, quindi perché io devo sempre mettere qualcosa di matematico, cioè faccio una spiegazione all'interno della storia di concetti anche abbastanza complessi per bambini di 9-10 anni. Le cavie hanno capito, parevano abbastanza interessate, quindi posso immaginare. Sì, perché è un po' di cavie. Chi sono le cavie? Di solito però la matematica è la materia meno appetita dai bambini fino agli adulti, è sempre la materia che sta sempre lì. Proprio per questo ne parlo. Sta qua la matematica perché non si capisce. Se ad addolcirla, a farla entrare nella mente dei bambini, allora arriveranno alle superiori quando poi diventa più difficile e già preparato. Oh cielo. Speriamo. Hai in mano il destino, eh. No, dici chi sono le tue cavie, dai. I ragazzini della parrocchia. Lo sa il parroco, sì. Ma non lo so. Sa che una volta gli ho disegnato sugli scalini della chiesa col gessetto tutte le formule. Gli schemini, quindi quelle le ha viste. Possiamo sapere in quale parrocchia? Cristo Re. Ma la matematica e la narrativa interagiscono in una qualche maniera nei processi, diciamo, hanno un processo simile di svolgimento mentale oppure sono due campi che rimangono staccati? Allora, io credo che si possano aiutare l'un l'altra. Cioè, per esempio, io sto preparando un esame di geometria, un orale. Non ho mai studiato geometria. Quindi sono messa bene. Ho preso tutti i teoremi che devo conoscere e ho fatto delle associazioni per trasformare il teorema in una storia. Io ricordo la storia, automaticamente riesco a ricordare il teorema con la sua dimostrazione. Beh, so che è un certo. po'... Quindi... Questa è un'idea, effettivamente, il teorema. Sono un po' i meccanismi della memoria. Anche. Sì, beh, io la memoria ce l'ho buona, grazie al cielo, quindi... Però quello che sostiene un mio insegnante, che tiene proprio un corso di comunicazione delle scienze, cioè spiega come fare per comunicare alla gente che magari... Non sa cose, chissà che cosa, magari anziani che sono ancora rimasti fermi, quinta elementare, terza media, o appunto a bambini e ragazzi, spiegare dei concetti complessi, però anche in forma leggera, cioè deve essere un gioco. Se diventa un gioco la matematica piace, altrimenti no. E soprattutto si deve capire. Sì. Lo so, è lì il difficile. Però dice la parte logica della testa che, che abbiamo tutti, però appunto bisogna... Però io penso che la matematica abbia anche un elemento fantasioso, creativo all'interno, perché se si muove in uno spazio che non esiste materialmente per i nostri occhi, i nostri sensi, come la narrativa, diciamo, si muove in dimensioni che non sono immediatamente percepibili, sì, allora, quello che dicono a noi studenti è che per fare matematica ci vuole una grande capacità di astrazione. E, sì, ci vuole, però quello che ci dicono anche è che i matematici quando non sanno una cosa se la inventano. Quindi... Posso aggiungere una cosa? Prego. Io ho insegnato tedesco all'italiano per la tre quarti di vita. Io ho usato spesso la matematica trasformandola in gioco, in Deutsch. Ah. E funzionava. Mi andava bene perché i bambini lo apprezzavano. Giocavamo a Deutsch in matematica. Allora, visto che siamo in una biblioteca, comunque in un centro culturale, vi dico che la Giannotti, che è una nota fisica nucleare che lavora al CERN di Ginevra, insomma è una delle 100 donne più influenti del mondo dal punto di vista scientifico ed economico perché porta avanti progetti da milioni di dollari, lei ha detto che un fisico e poi anche comunque un matematico deve essere alimentato nella fantasia, deve avere una fantasia prima di arrivare a pensare, ecco. E che trovano, anche Einstein. Sì, e che trovano sempre di grande utilità e necessità quello di visitare delle mostre di quadri, di immergersi in situazioni completamente diverse, quindi leggevo in una sua biografia questa frase che mi ha colpito, per cui ho detto bene, allora le biblioteche e i centri culturali servono anche ai fisici, dai, diamoci un tono anche noi. Benissimo, allora io direi di ringraziamo tanto Luca e Cristina, grazie a Maria Pia, grazie a tutti voi e ci troviamo di nuovo qui oppure in biblioteca nei prossimi giorni, in bocca al lupo ancora. Posso dire solo, vi rompo le scatole, ultima cosa, se per caso voleste acquistare questo libro, esatto, laggiù c'è il mio uomo di fiducia che vende e vi spiega, cioè arrivo io a spiegarvi perché lui non ha capito probabilmente niente, e potete anche solo prendere in mano per dare un'occhiata, vedere com'è, se vi può interessare, se vi piace, per carità, io non costringo mai nessuno a comprare niente, quindi grazie comunque per essere venuti.